Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, l'appuntamento con la cronaca su Radio 24, i fatti e i personaggi che ci parlano dell'Italia in controluce. Nelle ultime settimane in diverse città, in diversi ospedali ci sono stati molti casi di parti difficili o con complicazioni per i neonati e per le madri. In alcuni casi si è trattato di mala sanità, altre volte tragici casi del destino oppure errori dei medici. Può darsi, ma inevitabilmente si è tornati a parlare di un eccesso di chirurgia in sala parto e di cesareo facile. Su questa strada seguiamo Roberta Pellegatta. Come vorresti raccontare l'esperienza del tuo parto? Come un evento naturale o come un intervento chirurgico? Scegli il parto cesareo solo se necessario. Questo spot per la TV è stato realizzato da Onda, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, in collaborazione con l'OMS. Francesca Merzagora è la presidente di Onda. Il parto cesareo comunque è un intervento chirurgico, va quindi effettuato solo in caso di necessità clinica. Spesso i medici, per evitare le complicazioni, siccome non sono tutelati sotto il profilo legale, sono più facilmente portati a fare il cesareo, ma il cesareo ha le sue complicazioni, ha visto di recente cosa è successo. Quello che è successo ha il sapore di un bollettino di guerra, per rubare le parole a Ignazio Marino, presidente della commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale. Almeno 19 nell'ultimo anno i parti finiti in tragedia in Italia. L'ultimo caso denunciato risale al 3 settembre. A Padova, dopo un cesareo d'urgenza, un bambino è nato morto e la madre è stata posta in coma farmacologico dopo essere stata rimbalzata da un ospedale all'altro senza neppure un'ambulanza. E mentre il Ministero della Salute promette l'arrivo di nuove linee guida per l'uso dei bisturi in sala parto, in Italia la percentuale dei cesarei, 40%, supera di oltre il doppio la soglia fissata dall'OMS, che è del 15%. Il nostro è un record quasi mondiale. A pari merito con il Messico, peggio di noi fa solo il Brasile. In regioni come Sicilia e Calabria, poi, la percentuale supera il 50%, in Campania schizza oltre il 60%. Walter Ricciardi, dell'Istituto di Igiene dell'Università Cattolica di Roma, ci spiega i motivi. Può accadere perché il medico ha timore, diciamo, di incorrere in denuncia di cattiva pratica da parte dei pazienti o della famiglia dei pazienti, e quindi si ipercautela attraverso una medicina cosiddetta difensiva, e questo, diciamo, è derivante dal fatto che l'Italia, non a caso con il Messico, è l'unico paese che prevede per l'errore medico il codice penale, quindi i medici molto spesso hanno timore di essere denunciati penalmente e quindi preferiscono cautelarsi. Quindi questo è il primo elemento molto spesso taciuto. Il secondo sono elementi di carattere, come posso dire, finanziario o commerciale, perché il taglio cesareo è remunerato molto di più rispetto al parto fisiologico, è un parto più comodo, diciamo, nel senso che può essere programmato, e quindi anche in questo caso molto spesso si ricorre al parto cesareo non soltanto per motivi, come posso dire, di cautela, ma anche per motivi di opportunismo. Per arginare il business che ruota intorno ai cesarei, Lombardia e Friuli hanno pagato per un periodo i parti chirurgici con la stessa tariffa di quelli fisiologici. La regione Sicilia ha per ora solo annunciato che farà altrettanto. Nel frattempo abbiamo scoperto che i ginecologi si sentono più sicuri nell'operare. Strano, visto che è dimostrato che un parto naturale è meno rischioso di un cesareo. Per la donna e per il bambino sì, per il medico no, nel senso che se il medico lo sa praticare bene, il parto cesareo è un intervento chirurgico abbastanza banale. Le conseguenze maggiori sono per la donna e per il bambino. E il motivo per cui i ginecologi si rifugiano nella sicurezza del bisturi è così spiegato da Ciro Guarino, direttore dell'unità di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Mi spiega lei come è possibile insegnare ai medici ad assistere un parto spontaneo, se nei luoghi proprio dove si insegna ciò, nei policlinici universitari, la percentuale dei tagli cesari, leggi per esempio il Policlinico Federiciano a Napoli, è superiore al 60%? Se 7 donne su 10 vedono solo cesarei. Bravo. E quel medico come si formerà? Come potrà avere la sicurezza che invece proprio per la cultura attuale manca? L'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove opera il dottor Guarino, rappresenta un caso di eccellenza a livello europeo. Qui la percentuale dei parti cesarei è crollata dal 52,7% del 2004 al 17,5% del 2008. Il taglio cesareo non è indispensabile in caso di taglio cesareo pregresso, non è indispensabile in caso di gravidanza gemellare con i due bambini con la testina giù. Prenda ad esempio la regione Campania, 61% di tagli cesarei. Come farà mai a risollevarsi se non pone mano a questo argomento, cioè a far partorire i tagli cesarei pregressi? E purtroppo esiste questo falso mito perché non è possibile. Intanto diversi ginecologi denunciano la scarsa organizzazione, se non l'inadeguatezza, di molti dei punti nascita che esistono in Italia. Giorgio Vittori, presidente della SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia. Le spiego, un parto vale in Italia da 1.500 a 2.000 euro circa, un appendice vale 5.000 euro, una protesi d'anca vale 9.000 euro. Allora, se lei fosse un direttore generale con problemi amministrativi, quale struttura privilegerebbe? E sul materno infantile, che ha queste criticità che le ho appena detto, bisogna, invece che disinvestire e risparmiare, bisogna ristrutturare, riorganizzare, riottimizzare, quello che io chiamo fare la manutenzione dei punti nascita. Cerchiamo di riportare le maternità ad un livello europeo. Se poi ci sono dei ginecologi che si discostano dagli standard che noi definiamo, siamo noi i primi a censurarli. Quindi nel momento in cui diamo tutti le possibilità di avere uno strumento che funziona, possiamo parlare. Altrimenti è facile andare a finire sui giornali, altrimenti è facile dire che la colpa è di questo piuttosto che di quell'altro, e poi le donne muoiono, i bambini stanno male e il ginecologo oggi chiede maggiore struttura logistico organizzativa. Parliamone. Il ginecologo dice che la preparazione che ha avuto dovrebbe essere migliore. Possibile che nel 2010 non abbiamo strumenti per incidere su questo? È tutto anche per questa puntata. Vi ricordo che potete scriverci controluce@radio24.it. Buona giornata.